Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La fauna e la flora stanno mutando ormai sempre più rapidamente. L'effetto mixato del cambiamento climatico da una parte e dell'importazione di nuove specie da parte dell'uomo hanno insomma enormemente accelerato i processi naturali che comunque sono sempre avvenuti di migrazione delle specie. Le città sono tutt'altro che immuni a questi fenomeni, perché altrimenti vengono in mente insomma solo i pesci dei fiumi o magari quello che può succedere nei boschi. In realtà le città sono dei luoghi in cui convergono moltissimi ospiti indesiderati trasportati proprio da esseri umani e da merci che convergono tutte insieme e convergeranno sempre di più verso le città. Quello che può accadere è che ogni qualche anno ci troviamo di fronte a un'invasione di un nuovo animale, può essere un insetto, può essere un uccello, può essere qualunque cosa che sconvolge o comunque rompe un equilibrio preesistente. Parliamo di tutto questo tema anche con risvolti ecologici e così via con Sergio Urizio, che è presidente di ANI, dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione. Buonasera Urizio. Buonasera dottor Melis. Intanto, quali sono i luoghi di approdo di queste nuove specie? Sì, guardi dottore, sono i più svariati. Gli arrivi avvengono con il movimento delle persone, delle merci, dei bagagli. Se vuole degli esempi concreti, sì. Per non parlare teoricamente, 16-17 anni fa la zanzara tigre, la famigerata zanzara tigre, è arrivata a Genova con i copertoni esausti delle auto, le cimici dei letti si muovono con una rapidità straordinaria con i bagagli. Il punteruolo rosso delle palme è arrivato con delle partite infettate di alberi di questo tipo, quindi sono le più, i più vari. In più c'è un fenomeno di movimento diciamo interno, per cui problemi che prima non si conoscevano, dicevamo una volta i gabbiani erano al mare, oggi sono nel centro di Roma e quindi c'è tutto un fenomeno, una fenomenologia che cambia radicalmente il modo di rapportarsi, in alcuni casi costituiscono delle emergenze, in alcuni casi bisogna conviverci. Ecco, senta, tra l'altro per esempio per la zanzara tigre è stato tracciato proprio tutto un percorso. Ecco, abbiamo detto sono arrivati all'interno degli pneumatici usati perché c'era un po' di fango attaccato lì, le zanzare come è noto insomma lasciano le uova nell'acqua e nel fango e quindi in questo modo la zanzara tigre è partita dal Vietnam, è andata negli Stati Uniti e quindi da lì poi è arrivata in Europa, quindi un giro incredibile. E la cimice dei letti è l'insetto che va di moda ultimamente, se ne parla molto ed è tra l'altro un animaletto che, lasciatemi dire, che in qualche modo fa cadere uno stereotipo, no? Sì. Lei mi raccontava a un certo punto degli equipaggi degli aerei. Sì, no, è un aneddoto, ma non è capato per aria, cioè il problema è questo insetto si muove, quindi si diffonde con i bagagli, non con le persone, non con le cose. Cioè non sta addosso alle persone, ma si nasconde nei bagagli. Nei bagagli, sì. Incredibile. E naturalmente tutte le movimentazioni collegate in particolare al movimento aereo, in questo caso, sono estremamente favorevoli. Devo dire che l'albergo che trova qualche stanza infestata si vergogna e tende a nasconderlo per un fatto di immagine, ma in realtà questo tipo di infestazione non è connessa a un fatto di scarse pulizie eccetera, ma proprio al fatto che magari la sera prima c'è passato un viaggiatore con un dollar che era infettato. Allora alcuni alberghi anche prestigiosi mi stanno dicendo che rifiutano o tendono a non avere come ospiti gli equipaggi degli aerei. Quindi, perché sono tra i più movimentati. Ecco. Ecco, insomma, per cui questo mondo etereo di piloti e di hostess che insomma ogni tanto si racconta anche nei film. In questo caso viene associato al trasporto di un insetto, cosa che invece noi di solito siamo più propensi ad associare, come dire, a ben altre condizioni di vita, ecco, di persone molto meno fortunate. Senta, in che modo dobbiamo porci di fronte a questi fenomeni? Cioè, dobbiamo metterci in una logica di convivenza, cioè di lotta per contenere questi fenomeni, o possiamo metterci, diciamo, in una logica di contrapposizione per cui immaginiamo di bloccare o di eliminare alcuni di questi animaletti oppure di impedire l'arrivo di nuovi ospiti? Guardi, bisogna vedere caso per caso. Lei faceva il caso, per esempio, delle cimici dei letti. Le cimici dei letti erano sparite dalla circolazione. Anche qui sono riemerse, ma il fatto che erano sparite veniva collegato all'uso del DDT. Che aveva tanti difetti, lo sappiamo, ecco, ma non quello di non ammazzare gli insetti, quelli li ammazzava, che ammazzava esatto. Anche gli esseri umani, il problema era quello. Sì, era stato efficace. A questo punto, nel confronto dei cimici eletti, il problema non può essere di mezzi termini o di convivenza, va eliminato, va eradicato completamente. In altri casi, invece, questo non è possibile. Non voglio fare l'esempio dei topi, dei topi. Rapi con cui viviamo, ma da migliaia di anni, insomma. Ecco, per esempio, oggi, ma non da oggi, a New York, non è più distante anni luce da Milano o da Roma, le specie infestanti più gravi sono i colombi, i topi e gli scoiattoli. Gli scoiattoli stanno diffondendosi anche da noi, quindi lo scoiattolo è un animaletto grazioso, ma è un roditore anche lui e quindi comporta. Quindi dovremo in certi casi prepararci a un controllo o un mantenere questo tipo di infestazione al di sotto della soglia di tollerabilità. Dunque ci fermiamo qui, ma domani riprendiamo il discorso perché ci domanderemo che cosa possiamo fare anche noi come cittadini, che cosa deve cambiare dal punto di vista culturale per imparare ad affrontare sempre meglio questo fenomeno degli ospiti indesiderati. Per intanto grazie Eurizio. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.